Nottetempo 7 minutes, 7 minuti di musica indipendente a partire da adesso su Radio Libriamoci Web. Io sono Livia Napolitano e questa sera vi farò scoprire la musica indipendente italiana rilasciata sotto licenza Creative Commons dei Millionaire Blonde. Ma chi sono i Millionaire Blonde? Un gruppo, un solista, un progetto? L'essenza di Millionaire Blonde è nella voce di una donna, Maria Beatrice, compositrice ed interprete. Vi lascio quindi all'ascolto di Se ne va dei Millionaire Blonde. Erano i Millionaire Blonde in Se ne va, e anche Nottetempo 7 minutes Se ne va e vi dà appuntamento alla prossima settimana sulle onde web di Radio Libriamoci, la radio libera e sempre più indipendente.